perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. E però oggi l'accoppiata si è già scoppiata, perché Mauro, come era ampiamente nelle attese venerdì scorso, tutti siete stati testimoni delle sue condizioni di salute, mi ha abbandonato, non ci sarà con noi per tutta la settimana, ma noi naturalmente intanto lo salutiamo con affetto, auspichiamo una sua ripresa delle condizioni di salute molto rapida. E soprattutto, caro Mauro, te lo dico, visto che proprio oggi dovrebbe essere proclamato il Nobel per la medicina, nel caso ci fosse un medico che va bene per te, te lo manderemo immediatamente, così magari rimetti in sesto le tue condizioni di salute prima del previsto. Allora intanto lo salutiamo anche, magari da casa ci sta guardando su Facebook, dove è sempre in corso la nostra diretta, il nostro live. E intanto però vi dico di che cosa parleremo oggi in questa puntata priva del nostro Mauro Meazza, che peraltro oggi mi fa mancare anche il sonetto benaugurante di inizio settimana, ma glielo faremo riportare con la doppia razione lunedì prossimo. Allora intanto, naturalmente, all'indomani del weekend del controverso referendum per l'indipendenza catalana, faremo un punto anche sull'apertura di settimana di borsa. Come nelle attese, Madrid è la peggior piazza d'Europa, sta registrando un calo di oltre un punto percentuale, mentre sono un po' più tranquille le altre piazze europee, ma come sempre al mercato l'incertezza politica non piace. Analizzeremo questo avvio di settimana più a fondo tra poco. Poi il tema di approfondimento di oggi sono 90 gli stati, un tema un po' come dire complesso, ma che interessa in realtà moltissimi contribuenti italiani. Sono 90 gli stati che aderiscono tra quest'anno e il prossimo anno allo scambio internazionale dei dati su conti correnti, depositi, altri rapporti finanziari detenuti all'estero. C'è chi sostiene queste misure come garanzia di una lotta seria all'evasione e c'è chi già denuncia la fine del segreto bancario. Oggi ne parla diffusamente il Sole 24 Ore. Noi oggi cercheremo di decifrare questa notizia per voi. Peraltro va ricordato che proprio oggi scadono anche i termini per aderire alla voluntary disclosure, come sapete la nuova operazione di rientro di capitali dall'estero, che non è andata esattamente come il governo prevedeva, e quindi rifaremo un po' un punto della situazione anche su questo argomento. Nell'ultima parte della trasmissione, visto che oggi parte la World Investor Week, la settimana mondiale, se vogliamo ribattezzarla un po' così all'italiana, sull'educazione finanziaria, che è anche un'importante e imponente declinazione italiana, oggi vi racconteremo di una manifestazione che si svolge nel pomeriggio a Roma. La finanza per il sociale è un premio che riguarda anche noi giornalisti, che in qualche maniera sono chiamati a fare un lavoro adeguato per diffondere le conoscenze finanziarie degli italiani, che sono accusati, come sapete, di essere molto indietro su questo, per cui parleremo di una delle tante iniziative di questa settimana appunto nel nostro paese. Per tutti questi argomenti, come sapete, avete l'opportunità di intervenire in diretta all'800 24 0024, di scriverci al 349 238 6666, riceviamo sia i vostri sms che i vostri messaggi su WhatsApp, potete animare il dibattito anche su Facebook, il nostro profilo lo trovate molto rapidamente, e direi che insomma ci siamo, possiamo partire. Meteo Borsa. Hoy no hemos asistido a ninguna suerte de consulta, sino a una mera escenificación. Un episodio más de una estrategia contra la convivencia democrática y la legalidad. Lo avete sentito, ma probabilmente ieri lo avrete visto tante volte, questo messaggio del premier spagnolo Mariano Rajoy sul referendum non autorizzato per l'indipendenza della Catalogna. Oggi non c'è stato alcun referendum di autodeterminazione in Catalogna, è stata una messa in scena contro la convivenza democratica e la legalità. In sottofondo anche le urla da un'altra scena appunto che ha fatto il giro del mondo: la polizia spagnola in tenuta antisommossa mentre sgomberava con la forza le persone che attendevano di votare ieri appunto nei vari seggi di Barcellona. Allora, detto questo, noi non affronteremo ovviamente le implicazioni politiche di questo referendum, che comunque è importante, per qualcuno mette in crisi di nuovo tutta l'Europa. Andremo ad analizzare stamattina, in avvio di due di denari, le implicazioni di carattere economico-finanziario. Come parte l'Europa dopo questo referendum, con Madrid in forte calo, meno 1,16%, Parigi meno 0,03%, Francoforte è positiva, guadagna lo 0,33, Londra guadagna mezzo punto percentuale, Milano meno 0,10%, stamattina abbiamo avuto una prestazione moderatamente positiva per Tokyo, più 0,22%, è stato diffuso peraltro un importante rapporto sullo stato di salute dell'economia nipponica e il Tankan che è stato molto brillante, sono chiuse le piazze cinesi per festività, lo saranno per tutta la settimana. Ma andiamo un po' a valutare l'impatto del referendum catalano sulla borsa, lo facciamo stamattina con Davide Pasquali, presidente di Farus SICAV, che salutiamo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, tutto come nelle attese, adesso facciamo il punto sul mercato azionario, Pasquali, ma qualche impatto lo abbiamo visto stamattina anche sul mercato valutario, perché l'euro è di nuovo sceso rispetto al dollaro, impatto anche sul mercato obbligazionario, abbiamo avuto un allargamento dello spread fra il bonus spagnolo, che è il titolo di Stato decennale, appunto iberico, e quello tedesco. C'è dell'altro da segnalare, insomma, e voi operatori che cosa pensate delle implicazioni finanziarie di questo referendum? Ma come giustamente ha detto lei, oggi le aperture sono state leggermente negative, soprattutto in Spagna. La borsa era anche partita peggio, poi mi segnalavano i miei colleghi che comunque nel corso della mattinata le cose sono andate migliorando. Stessa cosa anche sulla parte obbligazionaria, bonus dell'Estado sono partiti con un leggero allargamento dello spread, adesso mi dicono che si sta comunque restringendo, sta rientrando un po' nella norma. Era logico aspettarsi un'apertura negativa, non tanto per il risultato effettivo che tutti già davano per scontato, quanto per l'atteggiamento del governo spagnolo, del premier Rajoy. Insomma, sta di fatto che un referendum è alla base della democrazia, quindi si tende sempre a non evitare di fare un referendum. Cioè, lei mi sta dicendo che la borsa più che altro boccia la reazione del premier rispetto alle risultanze? Sì, secondo me e secondo molti c'è stato un po' scomposta, dice. Sì, un po' troppo pesante, perché onestamente un referendum non andrebbe rifiutato in uno Stato democratico. Poi si va a valutare l'esito del referendum, se l'esito è contro le leggi della nazione ovviamente si dirà ragazzi è stato bello, purtroppo le leggi sono altre, però mandare polizia a sparare, avere così tanti feriti non dà un'immagine di uno Stato esemplare, quindi questo ha dato molto fastidio direi a livello internazionale. Allora, naturalmente l'attenzione all'andamento delle borse europee di questa mattina, all'indomani del referendum in Catalogna, ci fa spostare, ma solo per un attimo, l'attenzione rispetto a quello che è accaduto di nuovo invece venerdì scorso a Wall Street, dove il mercato appunto continua a testare un record dietro l'altro inarrestabile. Pensate che per il Dow Jones abbiamo avuto la chiusura del terzo trimestre del 2017, che è stato l'ottavo trimestre di fila in aumento, la serie temporale più lunga da 20 anni. A questa parte sono andati molto bene anche gli altri indici, e gli investitori, Pasquali, ricordiamolo, stanno continuando a sperare nell'approvazione di una riforma fiscale entro l'anno, anche se la proposta presentata la settimana scorsa dal presidente Trump rappresenta solo un punto di partenza dei negoziati, ma il mercato aspetta, è confidente rispetto a questa notizia. Sul mercato americano che cos'altro c'è da dire? È ormai un grafico in continua salita. Si fermerà prima o poi, e che cosa aspetta farlo secondo lei? Allora, che si fermerà prima o poi è inevitabile e la storia lo insegna, non esiste una crescita infinita, le crescite sane hanno bisogno di rallentamenti, di pause, di riflessioni, di tante cose. Quello che abbiamo assistito ultimamente è un qualcosa di straordinario, eccezionale, con dei dati aziendali sicuramente molto buoni fino adesso. Però va ricordato che i livelli delle azioni, soprattutto in America, hanno raggiunto dei livelli tali che ci fanno dire attenzione, siamo entrati in una fascia di attenzione, cioè bisogna usare molta prudenza adesso. Per cui in una scala percentuale, se qualcuno mi dovesse chiedere che rischio ho di correzione, io direi sopra l'80%. Non vuol dire che questo potrà accadere fra una settimana, fra un giorno, fra sei mesi, nessuno evidentemente lo può prevedere, però diciamo che a livello statistico siamo in una fascia di attenzione elevata. Certo, il tema è capire quale sarà la notizia che gli operatori prenderanno a pretesto per dare il via a questo stono. Ricordiamoci che c'è sempre l'elemento Nord Corea che sta lì e non tanto silente. Senta, devo andare tra poco al nostro primo approfondimento di oggi. Tra gli appuntamenti importanti della settimana, venerdì abbiamo il dato sulla disoccupazione americana di settembre. I settori da monitorare questa settimana per voi quali sono, Pasquali? Ma monitorerai due settori. Il primo è il retailer, soprattutto in America, che è stato devastato letteralmente da Amazon. Adesso pare che esista solo ed esclusivamente Amazon, e quindi tutte le società retailer, le più conosciute, non so, Foot Locker e Macy, per esempio, dall'inizio anno perdono il 50%. Quindi abbigliamento sportivo e largo consumo. Largo consumo, ovviamente Amazon fa una grande concorrenza a queste tipologie di società, però attenzione, perché aver perso il 50% vuol dire già tanto, quindi un occhio di riguardo lo darei a questo settore, e al biotecnologico che finalmente si è risvegliato e secondo noi ha delle ottime opportunità ancora nel breve periodo. E noi li terremo sotto controllo, così da capire se avrete ragione nel medio termine. Grazie a Davide Pasquali per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Io segnalo solamente rapidamente i migliori titoli di stamattina. UbiBanca più 2,78%, che ha avuto insieme alla Popolare dell'Emilia Romagna un giudizio positivo dagli analisti di Societe Generale. STM più 1,71%, Exor più 1,12%, Iux e Net-a-Porter in rialzo di un punto. I peggiori a Piazza Affari, Telecom e Fineco perdono oltre un punto, e nel Buzzi Unicem meno 0,8%. Andiamo al primo tema di oggi. Ma quello che non perdono a Meazza è quella parola strana. Lo volon dare discrasciur, che cavolo vuol dire? Spiegatevi bene. Guardi, lo diciamo al nostro amico ascoltatore, pur avendo fatto tante puntate su questo argomento, ancora non ci rassegniamo al fatto che questa operazione di rientro di capitali dall'estero la si debba descrivere con un termine anglosassone, inglese. Fabrizio Vedana, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Deve avvicinarsi un po' al microfono, sì, esatto. Marco è venuto a farci assistenza, ma non l'abbiamo. Aspetti, guardi che Peter si lamenta. Peter, ti va bene così? No, perché sai che gli ascoltatori ci guardano. Eccolo qua, deve stare un po' come sto io, Vedana, a una spanna dal microfono. Beh, povero, fa quello che può. D'altronde, con tutta la materia che studia, così complicata, non è che può sapere anche di radiofonia. Vedana, eccoci qua. Intanto gli amici di Facebook vedono che Marco è entrato a sistemarci. Allora, di che cosa parliamo questa mattina? Fabrizio Vedana, vice direttore generale di Unione Fiduciaria, che è la società fiduciaria dei servizi delle banche popolari. Insieme a lui abbiamo collegato telefonicamente anche il nostro Giovanni Parente del Sole 24 Ore. Giovanni, benvenuto. Ci sei? Sì, ci sono. Buongiorno. Eccolo qua, sì, non ti avevamo, vedi che Peter fa tanto le pulci a chi sta in studio, poi lui non tira su il cursore del mixer per il microfono di Giovanni. Allora, le notizie che commentiamo questa mattina. Il tema di oggi ha sempre un po' un suo fascino, può apparire anche molto distante a molti ascoltatori, ma in realtà se ne torniamo a parlare, perché il tentativo spesso riuscito di trasferire attività finanziarie all'estero è ancora, ahimè, diffuso, tanto che, come noti, il governo ha effettuato anche quest'anno una nuova operazione di riemersione che non è andata proprio come nelle attese. In più abbiamo anche un'altra importante novità che certamente avrà un impatto di non trascurabile importanza, di cui oggi proviamo a capire la portata. Come scrive oggi il Sole 24 Ore, il fisco fa cadere il velo sui conti esteri, i primi dati in arrivo con lo scambio automatico serviranno ad innescare le verifiche. Detta così, come tu giustamente dici, Giovanni, sul Sole 24 Ore, la paura fa 90, ma non è per le verifiche, è perché proprio da oggi sono 90 gli stati che aderiranno, in realtà tra quest'anno e l'anno prossimo, a questo scambio internazionale dei dati sui conti correnti, depositi e altri rapporti finanziari detenuti all'estero. Ci puoi chiarire le idee? Certo, Deborah. Allora, si tratta di un'operazione che ovviamente è stata congegnata e sviluppata in ambito internazionale, di cui l'Italia, in cui l'Italia è stata in prima fila, ecco, questo bisogna dirlo. C'è un modello che si chiama CRS, che è il Common Reporting Standard, l'acronimo di questo di questa sigla, che sta appunto per uno standard comune di comunicazione automatica dei dati, cioè i paesi che si sono impegnati a trasmettersi reciprocamente le informazioni finanziarie sui soggetti, sui contribuenti, persone fisiche e società non residenti, se li scambiano in automatico, quindi non più come avveniva in precedenza su richiesta specifica dei singoli stati, quindi questa è la vera svolta, questa è la vera novità, se li scambiano queste informazioni confluiscono nei database delle amministrazioni finanziarie, cioè delle agenzie delle entrate di tutti i paesi che aderiscono a questo standard comune di invio, e le amministrazioni finanziarie potranno poi utilizzarle per fare verifiche, approfondimenti, riscontri con le informazioni che sono già presenti nel loro database. Giovanni, ti fermo subito, tu parli al futuro, ma in realtà da quello che scrivi già da stamattina i database del fisco italiano potranno contare su questi nuovi elementi. Esatto, già da questa mattina, perché il termine di scambio scadeva il 30 settembre, in questo caso non è che c'è la proroga come quando ci sono degli adempimenti da parte dei contribuenti. Cioè dal 30 settembre è partito il primo slot, cioè vale a dire i primi 50 paesi che si sono impegnati a trasmettere le informazioni relative al 2016. Quindi insomma questo è stato il primo step, poi ci saranno altri 40 paesi che su per giù aderiscono a partire dal 2017, quindi trasmetteranno le informazioni 2017 entro il 2018, e quindi complessivamente c'è una mappa di 90 paesi in cui ci sono insomma anche territori come scrivamo questa mattina su Sole 24 Ore, soprattutto all'anno prossimo come Aruba, Hong Kong, la Svizzera, Monte Carlo, che sono stati storicamente nel passato ritenuti forzieri sicuri, no? In cui andare a portare i patrimoni all'estero. Adesso questo scambio di informazioni di fatto li rende trasparenti, li rende anche agli occhi del mondo intero non più quei paradisi fiscali e bancari che erano un tempo, ma appunto dei paesi che collaborano per scambiare informazioni e fare in modo che insomma anche il fisco possa conoscere chi occulta patrimoni e capitali all'estero. Devo già andare in pausa, ascoltare la borsa, e poi chissà che dalla redazione non arrivi qualche notizia sul Nobel per la medicina previsto per questa mattina, ma un primo commento a Fabrizio Vedana lo chiedo: che filo rosso lega questa iniziativa di cui parliamo questa mattina e la voluntary disclosure che oggi teoricamente chiude i termini, a meno che, data l'insoddisfazione del governo, non si riaprano i termini? La voluntary disclosure bis avrebbe dovuto essere l'ultima chiamata per tutti quei contribuenti italiani che avevano patrimoni in paesi interessati da questo scambio automatico di dati ai sensi della CRS. C'è un dettaglio: manca l'appello dei soggetti firmatari del CRS, gli Stati Uniti d'America. È una cosa importante questa? Penso che sia importante, potrebbe essere l'elemento di discussione nei prossimi mesi, perché a questo punto tutti gli italiani che non sanno dove parcheggiare liquidità non dichiarata al fisco dovranno trovare paesi che non scambiano informazioni ai sensi del CRS. Gli Stati Uniti pretendono, ai sensi di un'altra normativa, la normativa FATCA, di ricevere informazioni sui loro cittadini che hanno attività all'estero, ma gli Stati Uniti non hanno preso un analogo impegno nei confronti di tutti i paesi firmatari del CRS. Potrebbe essere un altro punto caldo nell'agenda già affollata di Donald Trump. Detto questo, adesso ci fermiamo perché devo raccontare di nuovo cosa succede stamattina in borsa, abbiamo la pausa e poi approfondiremo appunto i termini della questione che vi abbiamo proposto questa mattina. 800 24 00 24, numero verde, se avete delle domande potete intervenire in diretta, vi aspetto tra pochissimo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Due di denari. I'm a businessman. I'm a businessman. Come al solito, lo Stato incapace di scovare i veri evasori va a rompere le scatole a tutti, soprattutto agli onesti che per libera e legale scelta portano dei soldi all'estero. Ma l'operazione della quale stiamo parlando questa mattina, lo scambio internazionale dei dati su conti correnti, depositi e altri rapporti finanziari detenuti all'estero, non riguarda esattamente quelli che in maniera onesta vogliono trasferire le proprie attività finanziarie all'estero. Avvocato Vedano, ho capito male? Assolutamente, hai capito bene. CRS non deve spaventare gli italiani che hanno delle attività all'estero o scudate o disclosate o comunque dichiarate regolarmente. Scudate e disclosate, fantastico, insomma. Scusate, quindi oggetto di... di scudo fiscale 2003-2005, piuttosto che dell'edizione 2009-2010, ovvero disclosate, quindi oggetto della procedura di voluntary disclosure o disclosure, come ama dire Mauro l'ascoltatore. Ecco. Sì, Mauro. e quindi voluntary disclosure che, come sappiamo, proprio oggi ha la sua fase finale, la voluntary disclosure bis, si chiude oggi dopo la proroghina che è intervenuta con un decreto interministeriale prima dell'estate. Proroghina che si è resa necessaria perché il trend di adesione non andava secondo le aspettative del governo. Siamo ben lontani dalle 29.000 adesioni previste, come scrive questa mattina il Sole 24 Ore. Secondo lei perché non è andata come nelle attese? Il meccanismo era radicalmente diverso rispetto alle operazioni del passato, oppure ormai tutto quello che poteva essere sanato e fatto rientrare ha fatto e non diciamo chi rimane fuori è perché vuole farlo volontariamente, evidentemente non gli interessano queste operazioni. Ci sono probabilmente almeno due o tre tipologie di soggetti che non hanno aderito né alla voluntary 1 né alla voluntary 2. Prima tipologia di soggetti sono quelli che hanno delle attività all'estero frutto non di reati fiscali ma di reati assai più gravi, quindi reati di criminalità, reati di truffa e via discorrendo, che non erano coperti né dallo scudo fiscale né coperti dalla voluntary 1 né dalla voluntary 2, e quindi evidentemente denari che nessuno intercetterà mai in nessuna maniera, presumibilmente a meno di intermediari che ritengano comunque di accogliere denari derivanti da reati. Non è una voluntary quella che potrebbe consentire il rientro di queste assolutamente no attività finanziarie, tra virgolette, ecco. Altri italiani che potrebbero aver deciso di non aderire neppure a questa campagna di voluntary disclosure sono quelli che hanno i patrimoni in paesi che né adesso né domani pare siano interessati dallo scambio automatico dei dati ai sensi del CRS, quindi tra questi ho citato gli Stati Uniti d'America, ma potrebbero essercene altri di stati. Oggi o domani, molti commentatori vedono la Brexit come una possibile via attraverso la quale l'Inghilterra potrebbe diventare un nuovo paradiso fiscale. Anche la Catalogna, secondo lei? Ma la Catalogna, vedremo, il cammino è molto più lungo per la Catalogna di quanto non per l'Inghilterra. Inghilterra che ha sottoscritto il Common Reporting Standard come Gran Bretagna, quindi non come singolo stato Inghilterra. Breaking News. Sì, buongiorno da Adriana Fracchia, dalla redazione. È arrivata appena ora la notizia del nuovo premio Nobel in fisiologia o medicina 2017. Il premio è andato a Jeffrey Hall, Michael Rosbach e Michael Young per le loro scoperte sui meccanismi molecolari che controllano il ritmo circadiano. Vi daremo ulteriori informazioni nelle prossime edizioni. Ecco, dubito che questi medici e questi scienziati possano far qualcosa per la bronchite di Mauro Meazza, come auspicavamo all'inizio, per cui adesso lasceremo a Nicoletta Carbone decifrare la specializzazione appunto di questi Nobel. Torniamo a noi, Fabrizio Vedana, indicavamo le tre ragioni per cui la voluntary disclosure bis probabilmente non ha avuto il successo che ci si aspettava. Quindi la terza, mi ha detto al prima, l'italiano che evidentemente ha delle attività all'estero derivanti da reati inconfessabili. Illeciti puri. Illeciti puri. Seconda ipotesi, ha dei denari in paesi che non scambiano dati ai fini del CRS o ad altri fini e quindi si sentono più ancora al sicuro. Più sicuro. Terza ipotesi, quegli italiani che hanno all'estero o in Italia attività non finanziarie ma denaro contante. tema dell'emersione del denaro contante, che con la voluntary disclosure bis sembrava potesse avere una sua soluzione attraverso l'introduzione di un'imposta di tipo forfettario, che poi è stata ribattezzata imposta Corona, perché erano i giorni in cui Corona aveva fatto scoperti dei denari nel sottotetto. Quindi non è stata quindi approvata col 35%, però pare che molti italiani abbiano, sia in Italia che all'estero, denaro contante frutto di evasione fiscale che non riescono a far emergere. Andiamo invece a coloro che hanno disclosato, si dice così, quindi hanno approfittato dell'operazione di voluntary disclosure. Chi sono in particolare, Vedana? Tanto per capire se magari i contribuenti che ci stanno ascoltando e che hanno attività finanziarie all'estero, che non hanno fatto, che non hanno denunciato correttamente al fisco italiano, possono ancora, non fanno più in tempo perché abbiamo chiuso i termini appunto oggi, ma chi sono appunto quelli che hanno approfittato di questa operazione? Diciamo che la platea comprende sia liberi professionisti, imprenditori, medici, dentisti, tipologie le più variegate. L'origine dei fondi detenuti all'estero illecitamente, quindi spesso e volentieri semplicemente, tra virgolette, non indicati nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, sono origini legate a non fatturazione, quindi il cosiddetto classico nero del libro professionista dell'imprenditore, fatto negli anni in cui forse era più facile farlo, non è più così oggi per tanti motivi, ovvero eredità o donazioni lasciate da parenti all'estero e mai messe nel quadro RW e mai sottoposte magari ad imposte. Magari quelle in totale buona fede, perché forse non si conosceva la procedura. Su un conto è un'attività professionale particolarmente redditizia che non vuoi denunciare al fisco italiano, la trasferisci altrove. Un conto è magari queste situazioni che in realtà possono essere condizioni di buona fede del contribuente interessato. Normalmente sì, diciamo che situazioni, poi dopo ci sono gli evasori tra virgolette cronici, quelli che hanno fatto lo scudo fiscale 1, hanno fatto lo scudo fiscale 2 e hanno fatto la voluntary disclosure, quindi hanno continuato evidentemente a portare all'estero denaro, non si sono fermati al primo scudo fiscale e sanare tutto, ma dopo lo scudo fiscale hanno ricominciato a farlo. Giovanni Parente, secondo te quando avremo una fotografia definitiva rispetto alla voluntary disclosure 2, come è andata, visto che ribadiamo oggi, dopo la proroga concessa, i termini per aderire si chiudono oggi? Guarda Deborah, molto probabilmente dovremo vedere se all'interno della legge di bilancio, decreto fiscale o DDL, che mai si pensa che siano queste le due articolazioni della manovra, si possa ripensare a una riapertura o meno. Non è un tema che al momento è all'ordine del giorno. Avevamo parlato, quando era emersa l'ipotesi, la sanatoria del contante, di questa ipotesi, ma poi c'è stato un poco di fila di sbarramento, lo stesso MEF ha smentito che l'ipotesi è allo studio, quindi bisognerà vedere se l'ipotesi tornerà in questo ambito anche come emendamento parlamentare, perché immagino essendoci una legge di bilancio che sarà di fatto l'ultimo provvedimento grosso di legislatura, e potrebbero esserci anche molti interessi a coprire delle misure, una nuova emersione, benché immagino con possibilità ulteriormente ridotte di portare risorse, potrebbe anche essere presa in considerazione. Bisogna ricordare una cosa, che non solo si è molto lontani dal target delle adesioni stimate con la manovra dello scorso anno, ma addirittura lo stesso governo, in quella che si chiama nota di aggiornamento al DEF approvata a settembre, ha di fatto rivisto al ribasso le stime degli incassi di questa operazione. Hanno previsto 1.600, adesso dovrebbero entrare complessivamente 850 milioni di euro, quindi insomma quasi dimezzato. È chiaro che probabilmente anche dopo la prima, la seconda ha visto un effetto scia ulteriormente ridotto, come diceva giustamente Vedana, per quei tre ordini di motivi. E sul contante, che forse è la leva su cui si potrebbe pensare di ricavare qualcosina in più, non c'è accordo politico al momento, perché è chiaro che molte forze anche all'interno della stessa maggioranza la vedono come un condono secco e quindi non sono disposte a votarla, e adesso i numeri sono piuttosto esigui, soprattutto al Senato, quindi è difficile, insomma, al momento che si faccia una sanatoria a forfè sul contante. Certo. Però stiamo a vedere quello che potrà succedere nei prossimi. E invece, secondo giorni. Te, un altro differimento rispetto all'operazione attualmente in corso è possibile? Visto che gli studi professionali anche che stanno gestendo queste operazioni sono in affanno, lo scrivevate anche voi qualche settimana fa, e ci messe anche le problematiche legate allo spesometro che hanno contribuito a complicare ulteriormente la vita degli studi professionali, commercialisti, professionisti del fisco e non solo, e anche Fabrizio Vedana, vedo dalla faccia che fa, Giovanni. No, Deborah, oggi tra l'altro è un giorno abbastanza clou per quanto riguarda studi professionali e contribuenti, perché oggi non è soltanto il giorno per la scadenza delle domande di voluntary disclosure, ma c'è anche la scadenza della rottamazione delle liti. La seconda rata della rottamazione. Scade la seconda rata della rottamazione delle cartelle esattoriali dell'ex Equitalia, quindi insomma c'è un coacervo di scadenze che è venuta oggi. No, sai, tecnicamente la proroga, come ha ricordato Vedana prima, potrebbe anche essere semplicemente accordata non con una norma di legge primaria, ma con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che comunque è un'operazione che non richiede neanche un passaggio in Consiglio dei Ministri. Staremo a vedere, naturalmente, abbiamo le antenne puntate, e qualora dovesse esserci questo passaggio proveremo a raccontarlo sulle colonne del Sole 24 Ore. Vedana. C'è da aggiungere un ulteriore aspetto non indifferente. Con oggi scade anche il termine per pagare in autoliquidazione la voluntary, che è una delle novità della voluntary bis rispetto alla 1. Allora facciamo una cosa, mando il traffico, poi spieghiamo esattamente cosa è significato effettuare emersione dei capitali appunto dall'estero e in che modalità si potevano sanare queste situazioni spalmate su tutto il territorio mondiale. Salutiamo nel frattempo Mauro Meazza che mi scrive: io vorrei disclosare la bronchite, cara Deborah, bravi tutti, ne approfitto per ringraziare Giovanni Parente per l'articolo uscito oggi. Tu guarda che modalità, Giovanni, che il tuo capo trova oggi per plaudire al tuo pezzo. A tra poco, dopo il traffico. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta. Due di denari. If I were a rich man, I have a questa proprio non la conosco. Mauro, mi manchi, perché qua lo sai che con te facciamo sempre il punto della situazione anche musicale delle canzoni scelte dai nostri ragazzi per arricchire il nostro programma. Oggi parliamo di voluntary disclosure, bis. Abbiamo avuto appunto una proroga perché il governo si è reso conto in questa nuova operazione che le cose non stavano esattamente andando come nelle intenzioni, e poi abbiamo accavallato a questa notizia di questa scadenza di questa giornata anche un'altra notizia appunto che oggi pubblica il Sole 24 Ore, che si riferisce al fatto che praticamente da oggi ammonteranno a 90 gli stati che aderiranno in realtà tra quest'anno e l'anno prossimo a questo scambio internazionale dei dati su conti correnti, depositi e tutta un'altra serie di rapporti finanziari detenuti all'estero. In pratica c'è chi l'ha ribattezzata come la definitiva fine, se si può utilizzare appunto questo concetto del segreto bancario. Allora, Fabrizio Vedana, stavamo facendo il punto sul significato di attività di emersione. Quali sono stati i termini dell'operazione che si conclude oggi e soprattutto come hanno potuto i contribuenti interessati a questo nuovo condono, questa nuova sanatoria, chiamiamola come vogliamo, appunto, che cosa hanno dovuto fare per regolarizzarsi? Beh, diciamo la vera novità della voluntary bis rispetto alla prima voluntary è stato appunto rappresentato dalla possibilità da parte dei contribuenti di versare in autoliquidazione imposte e sanzioni a saldo, diciamo, a perfezionamento della procedura di sanatoria. Non era così con la prima voluntary, tant'è che è stata molto criticata la prima voluntary perché c'erano code infinite in Agenzia delle Entrate che doveva verificare i calcoli fatti dai contribuenti con i loro professionisti, e solo dopo aver fatto questa verifica si poteva andare ad effettuare il pagamento. Perché è importante il pagamento? Perché solo con il pagamento di imposte e sanzioni si realizza il cosiddetto perfezionamento della procedura. Tradotto da un punto di vista fiscale e penale, diventa a quel punto uno scudo, una causa di anche di non punibilità nell'ambito dell'eventuale procedimento penale. Se non c'è notizia certa del perfezionamento, che ripeto sia con il pagamento integrale di imposte e sanzioni, il contribuente non può opporre all'eventuale amministrazione fiscale o alla procura della Repubblica di aver sanato i suoi conti col fisco o con la giustizia nel caso di reati fiscali, opponendo appunto la voluntary. Imposte e sanzioni calcolate in che misura? Calcolate in misura puntuale, tenendo conto in particolare delle diverse annualità che devono essere sanate. Nel caso della voluntary bis, altra novità importante rispetto alla 1, le annualità da sistemare erano 7 e non 5 come con la precedente voluntary, in particolare per chi aveva omesso di indicare in dichiarazione dei redditi attività finanziarie o patrimoniali all'estero. 4 anni con la vecchia voluntary, 6 anni con la nuova per quanto riguarda quelli che avevano, tra virgolette, semplicemente dimenticato qualcosa in dichiarazione dei redditi, quindi in un caso omessa la dichiarazione, nel secondo caso infedele dichiarazione. Allora, intanto stavo controllando appunto se ci fossero delle domande da parte degli ascoltatori. Sono arrivate. Vincenzo da Ventimiglia, rapidissimo, buongiorno, grazie. Sì, buongiorno. Vincenzo da Ventimiglia, 45 anni, una piccola puntualizzazione. Anni indietro io sono dipendente, lavoro in Italia, ho investito in Costa Azzurra ho comprato un appartamento, semplicemente perché credevo più a investire all'estero. E oggi come oggi, cioè dal 2012 credo che sia stata inserita questa tassazione che si chiama IVE, imposta valore. IVIE, sì. Vincenzo, voilà. Veloce perché stiamo chiudendo. Sì. Niente, grosso modo è una puntualizzazione, come se chi investe all'estero è come se fosse un truffaldino. Invece non è affatto così. Non credo che sia esattamente così, Vincenzo. Detto questo, ciò che si fa con l'estero magari bisogna appunto correttamente denunciarlo al fisco italiano e a qualcuno che non è magari corretto come lei e quindi ha questa percezione. Il fatto di rilasciare queste informazioni sfugge e non sempre in buona fede, Vedana. Esatto, soprattutto per quelli che questi immobili li detengono a titolo personale, non li affittano, immagino che sia il suo caso, e cioè la classica casa di vacanze che viene utilizzata da lei e dalla famiglia ma non affittata. In questo caso sono all'esame anche del Parlamento una serie di interventi per semplificare ulteriormente il quadro RW per situazioni come la sua. Ricordiamoci che il CRS di cui si è parlato stamattina, il Common Reporting Standard, non si applica ad oggi alle attività patrimoniali, quindi gli italiani che hanno attività patrimoniali, tipicamente l'immobile, non vedranno il loro nominativo comunicato dall'amministrazione fiscale francese, nel caso specifico all'amministrazione fiscale italiana. Il Common Reporting Standard opera solo per eventuali attività di tipo finanziario, quindi è uno scambio di dati che opera con riferimento a conti correnti, depositi, gestioni. Per ora gli immobili non sono hanno fuori ancora questo tipo di scambio automatico. Allora, se ce la faccio, prima di salutarci, sentiamo anche la domanda di Diego da Roma. Prima però devo andare a Roma per un'altra cosa, da Gianfranco Torriero, che è vice direttore generale dell'ABI. Torriero, buongiorno. Buongiorno, grazie. Perché oggi a Roma c'è un premio importante, viene attribuito il premio Finanza per il Sociale. Ce la fa a raccontarcelo in 2 minuti di che cosa si tratta? Peraltro mi veniva in mente che, avendo anche il patrocinio del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, questo premio richiama un po' anche l'attenzione sul fatto che noi professionisti dell'informazione, dottor Torriero, dobbiamo fare il nostro per implementare l'educazione finanziaria generale, perché sappiamo che è un grande tema di dibattito in questo momento e gli italiani ancora continuano ad essere considerati come gli ultimi della classifica in Europa in questo senso. Torriero, che cos'è il premio di oggi? È un premio che appunto abbiamo lanciato nel 2013 insieme come ABI, Associazione Bancaria Italiana, e FIABBA, il Fondo Italiano per l'abbattimento delle barriere architettoniche, e poi dal 2015 ci supporta anche la FEDUF, cioè la Fondazione per l'Educazione Finanziaria al Risparmio, per assegnare un premio che è rivolto ai praticanti, agli allievi delle scuole di giornalismo a master riconosciuti proprio dall'Ordine dei Giornalisti, in modo tale da poter sensibilizzare e quindi focalizzare l'attenzione dei giovani giornalisti sul tema della finanza del sociale. Quest'anno il premio, che è aggiunto alla terza edizione, era intitolato Il ruolo dell'educazione finanziaria al risparmio come strumento di inclusione sociale, sfide e prospettive nell'era digitale. Quindi abbiamo sostanzialmente tre parole chiave, tre concetti: educazione finanziaria, inclusione sociale e digitale. Elementi importanti, quindi abbiamo ricevuto ben 15 contributi da parte delle principali scuole di giornalismo presenti sul territorio, e oggi nel pomeriggio faremo annuncio di chi è il vincitore dell'iniziativa. Benissimo, grazie. Ricordo peraltro, Tortoriero, grazie molto, in bocca al lupo per oggi, a presto. Ricordo grazie. Peraltro che oggi c'è anche l'avvio della World Investor Week, come dicevamo all'inizio, fino a domenica 8 ottobre si celebrerà la prima edizione della Settimana Mondiale dell'Investitore, a cui partecipa naturalmente anche l'Italia, con tutta una serie di iniziative. Potete andare sul sito della Consob e trovare tutti gli eventi a cui è possibile partecipare. Diego da Roma voleva dire che la seconda voluntary disclosure non ha avuto successo perché è crollata la fiducia dei contribuenti, preferiscono rischiare ammende per non rischiare cose peggiori. Vedana, in 10 secondi, potrebbe essere? Beh, credo che sia parzialmente vero. Chi vuole fare la voluntary può anche lasciare i soldi all'estero, se non si fida delle banche italiane le può lasciare presso banche estere, quindi non credo che sia quello l'elemento di sfiducia della voluntary bis. Grazie a Fabrizio Vedana, Giovanni Parente per essere stati con noi. Noi con due di denari torniamo domani, vi auguro una buona giornata.